all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. Eccoci qui al servizio alle 7:20 minuti, è il momento della rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo subito a capire che cosa ci offrono i quotidiani in edicola. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a mercoledì 17 maggio con le aperture. Il Sole 24 Ore, PIL, l'Italia cresce dello 0,2%, l'Unione Europea corre a doppia velocità. Questo è il titolo di prima pagina. C'è il caso Renzi, la telefonata. Il Corriere della Sera proprio titola così: Renzi, il caso della telefonata. Mentre il Messaggero, caso Renzi, due procure nel mirino. Il Fatto Quotidiano, che ieri ha fatto emergere questa storia, e avremo ospite Marco Lillo del Fatto più tardi. Renzi mente pure sulla telefonata al babbo, tace su Luca e ci diffama. Luca e Luca Lotti. Il Giornale, Renzi intercettato, un depistaggio nell'indagine farsa. La telefonata finisce sul Fatto, è una fuga di notizie che fa tutti contenti. Maledetti babbi, titola Libero. Mentre La Verità, intercettazione distrutta dalla procura, prova che babbo Renzi sa molto su Consip. È un'altra intercettazione, parlando col suo avvocato di Luigi Marroni, il dirigente che lo accusa, il padre Tiziano Renzi dunque lo definiva ricattabile. Per i magistrati partenopei era la dimostrazione che voleva condizionare il testimone. Intercettazioni, il teatrino è il titolo del giorno, c'è la foto di Matteo e Tiziano Renzi. Poi invece le aperture sulla America, sulla decisione di Trump, abbastanza incredibile, di svelare qualche segreto ai russi dicendo io sono il boss e faccio ciò che voglio, questo in sintesi. A Mosca, notizie segrete, la rabbia dell'Unione Europea su Trump e l'apertura di Repubblica, mentre La Stampa, Trump, la battaglia delle spie. Ma io rimango su Repubblica, che ha un'apertura sui migranti, è una notizia che c'è solo su Repubblica e merita forse l'attenzione almeno all'inizio di questa rassegna stampa. È Gianluca Di Feo che racconta che cosa. Beh, spesso lo sentite, si dice fermiamo i migranti prima che partano, fanno spesso queste traversate molto dure nel deserto, dure perché muoiono molti di loro, perché vengono sfruttati, perché non ce la fanno. E poi l'ultimo tratto del loro lungo viaggio è quello proprio della rotta in mare verso l'Italia e l'Europa. E allora si dice fermiamoli prima che partano. Ebbene, racconta Repubblica che c'è un caso. Roma tratta con Parigi e Berlino l'invio di un contingente militare in Niger, dunque al sud della Libia, 500 militari da formare, una task force per fermare la rotta dei disperati. Si chiama Operazione Deserto Rosso, non sarà per nulla facile schierare un contingente militare italiano nelle dune del Niger settentrionale, comporta costi e rischi altissimi. Ma il governo Gentiloni non ha ancora preso una decisione, lo Stato Maggiore della Difesa invece sta cercando di definire i piani della missione che ha già il sostegno pieno di Berlino e vedrà un ruolo chiave di Parigi. 500 soldati per fermare l'esodo verso le nostre coste. Gianluca Di Feo poi spiega tutti i particolari di questa notizia in anteprima data da Repubblica a pagina 7. Si racconta già di una macchina in marcia. Il primo passo formale l'han fatto pochi giorni fa. I ministri degli interni Marco Minniti e Thomas de Maizière chiedendo a Bruxelles di autorizzare la spedizione. Gli obiettivi sono in parte di natura umanitaria, avviare programmi di sviluppo per le comunità lungo la frontiera tra Libia e Niger, e in parte di polizia, dare assistenza tecnica e finanziaria agli organi libici incaricati di contrastare l'immigrazione clandestina. In pratica si tratta di addestrare un corpo di guardie di confine libiche, come previsto dagli accordi siglati a Roma tra una sessantina di tribù del sud. E poiché nessuno dei governi libici è disposto ad accettare la presenza di forze straniere, la soluzione è di creare una base in Niger, appena al di là in confine. Questa può essere una prima soluzione? Certo, bisognerà capire ora come evolve questa situazione, però Repubblica la mette in ampio risalto in prima pagina. Soldi! Sapete che in Italia c'è l'invidia sociale massima per i soldi, per il denaro, il vil denaro, e allora oggi ci sono delle notizie legate ai soldi. Allora, questa l'avete sentita di Silvio Berlusconi: ciò che vale per tutti non vale, con una sentenza della Cassazione nel caso Berlusconi, Veronica Lario. Berlusconi, o meglio i suoi avvocati, sono visti respingere la richiesta di diminuire l'assegno di 2 milioni di euro al mese per Veronica Lario. Perché, come racconta Patrizia Maciocchi sul Sole 24 Ore, pagina 39, il coniuge separato ha diritto di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Ma come, direte voi? Non abbiamo appena detto, con la vicenda Grilli, eccetera, la chiave di tutto è questo: il coniuge separato, non divorziato. Secondo la Cassazione, che ha respinto il ricorso di Berlusconi che chiedeva di tagliare il maxi assegno di separazione, con la separazione, diversamente che nel divorzio, il vincolo coniugale conserva la sua efficacia. E dunque, per questa vicenda, e poi decisivi per il verdetto la sproporzione dei redditi tra i due, l'ultracapienza economica di lui, il tenore di vita eccezionalmente elevato di lei, tutto questo porta a respingere il ricorso. Il tenore di vita di lei lo racconta Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera. Villa Belvedere di Macherio, stimata 78 milioni, una dozzina di persone di servizio, segretaria e maggiordomo compresi, un imponente apparato di sicurezza, abiti esclusivi dei più noti stilisti, una piscina, una palestra con personal trainer, parrucchieri, estetisti a domicilio, 5 settimane di vacanze a Villa Certosa di Porto Rotondo Olbia, 4-5 settimane in crociera ai Caraibi sugli yacht del marito, che ne metteva a disposizione anche i velivoli delle sue aziende per spostarsi in tutto il mondo, garantendole 50.000 euro al mese per le piccole spese e facendole regali di ogni tipo, tra cui gioielli di valore inestimabile. Ecco, questo è il tenore di vita, e questo deve mantenere la signora Lario per sentenza. Soldi, soldi, soldi. Oh, questa è una storia di quelle che accadono a volte nei film, a volte nella realtà. Il Secolo XIX racconta che è successo nella realtà a Rapallo. Lo fa Silvia Pedemonte raccontando la storia di Gianni Di Rocco, per anni clochard, barbone a Rapallo, dal 1996, credo di aver capito bene, dal 94, ha vissuto da vagabondo in strada. Suo domicilio, piazza del municipio, a Rapallo. Ma è tra l'altro un signore che racconta la sua storia, laureato in sociologia urbino, poi un giorno è venuto a Milano. A Milano, come racconta lui, si è mangiato tutti i soldi, fino all'ultimo spicciolo al casinò, ma vizio del gioco a parte non ho mai avuto problemi, mai andato in galera, credo nella legalità, nelle istituzioni, insomma ripartito per una nuova vita, solo con una camicia azzurra, ha vissuto dal 94 a Rapallo come clochard. Che succede? Una zia di Teramo le ha lasciato l'eredità, appartamenti, terreni. Eccolo qua, l'eredità della vecchia zia fa diventare ricco un clochard. Racconta Silvia Pedemonte sul Secolo XIX, lui per il momento dice: sono ancora un barbone, tutto quello che ho è lì dentro, e fa vedere uno zaino appoggiato per terra. Per anni e anni ho avuto solo questo con me. Poi mi hanno chiamato e ora sto partendo per Teramo, dove verrà aperto il testamento della zia. Mi ha telefonato una cugina dicendo: l'eredità comprende appartamenti, terreni, denaro. Non sono l'unico a ereditare, quindi non so bene la cifra, ma eccola qui, la nuova vita di Gianni Di Rocco, che dice: non dimenticherò mai chi mi ha aiutato, vedrò di dare indietro il bene che ho ricevuto. Vabbè, è una bella storia, bravo Gianni Di Rocco. Come una telefonata ti cambia la vita. Allora, signori, questo invece è un articolo che veramente mi ha messo male, e lo racconta il Fatto Quotidiano, lo racconta Repubblica, lo leggo da Repubblica. È la storia di un giornalista messicano. Fare il giornalista in Messico, soprattutto giornalista d'inchiesta, è un qualcosa di incredibilmente pericoloso, come ha raccontato anche Roberto Saviano in uno dei suoi libri. Javier Valdés Cardenas, 50 anni, è il sesto giornalista messicano ucciso. Ucciso con 13 pallottole, come racconta Homero Chai su Repubblica. Questo, se l'avete capito, è l'articolo del giorno che più mi fa incazzare. Oggi la dico tutta. Racconta Homero Chai, tutti incontrandolo a Culiacán gli abbiamo chiesto: Javier, ma non hai paura? E lui rispondeva: sì, certo, ma la paura è quello che vogliono loro, i narcos, che vogliono che non usciamo di casa, che non parliamo, che non scriviamo nulla di loro, così possono fare tutto quello che vogliono. E aggiungeva: fare il giornalista d'inchiesta in Messico è come essere su una lista nera, sono loro che decidono il giorno che ti ammazzeranno. Anche se hai la macchina blindata, la scorta, se vogliono ammazzarti lo faranno. È quasi impossibile fare giornalismo in Messico, i proiettili fischiano troppo vicino. Ebbene, Javier Valdés Cardenas, 50 anni, corrispondente della Jornada e fondatore di Rio 12, è stato assassinato a Culiacán lunedì. I sicari dei narcos gli hanno sparato addosso 13 proiettili mentre dalla sede della rivista tornava a casa in auto dalla famiglia. I killer incappucciati lo hanno costretto a scendere dalla macchina, hanno sparato e poi sono fuggiti con l'auto della vittima che hanno abbandonato poco dopo. Javier Valdés è il sesto giornalista assassinato in Messico dall'inizio dell'anno. Una strage infinita e soprattutto senza colpevoli. Nel 2016 i giornalisti uccisi furono 11, uno ogni mese. Il suo ultimo libro, Narcoperiodismo, Valdés l'aveva proprio dedicato al lavoro giornalistico in Messico. Dove vivo, scriveva, fare giornalismo significa camminare su una linea invisibile tracciata dai cattivi che stanno nel narcotraffico ma anche nel governo, un terreno affilato, pieno di esplosivi. Così si vive in quasi tutto il paese. Bisogna guardarsi da tutto e da tutti. Anche le redazioni sono infiltrate dai narcos e sembra che non ci siano opzioni, né salvezza, né un'istituzione che possa difenderti. Era la memoria storica del cartello di Sinaloa, è stato ucciso lunedì il reporter Valdés, che sapeva troppo. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Adesso bilancio tutto Alessandro Milan balistico intercontinentale, perché Alessandro Milan è il Kim Jong-un dell'informazione. Va bene, ho capito quasi niente. Comunque va benissimo, cari ascoltatori. Allora, la politica si anima per questa telefonata che Matteo Renzi ha fatto al padre Tiziano ed è finita in un libro di Marco Rillo e poi ieri sul Fatto Quotidiano. La vicenda è nota all'indomani, alla vigilia, non all'indomani, alla vigilia dell'interrogatorio del padre a Roma per la vicenda Consip. Matteo Renzi lo chiama preoccupato in toni molto bruschi, gli dice: adesso devi dire la verità, ha incontrato Romeo. Allora, i giornali si dividono tra coloro che pensano che sia una polpetta avvelenata, e cioè Renzi, sapendo benissimo di essere intercettato, perché era intercettato il padre, o comunque immaginandolo, non sapendolo perché lo sapeva da fonte certa, ma perché lo poteva davvero immaginare, si precostituisce con questo tono duro una telefonata in cui poi dice: vedete, io l'ho anche rimproverato mio padre. Per esempio il giornale è convintissimo, Alessandro Sallustri fa un lungo editoriale definendo questa tutta una vicenda assolutamente assurda, una, per usare le parole dello stesso Sallustri in prima pagina del giornale, noi fessi a leggere e scrivere questa banda di cialtroni e di un'inchiesta fatta di bufale e controbufale, che invidia. E la banda di cialtroni sono poi i colleghi, secondo Sallusti, i colleghi del Fatto Quotidiano. Ma anche La Verità, Maurizio Belpietro, dice insomma, come possiamo credere che Renzi, sprovveduto, non immaginasse di una telefonata intercettata? La reazione, secondo il Messaggero, Alberto Gentili a pagina 3 ieri, di Renzi, racconta invece di un Matteo Renzi arrabbiatissimo, uno stillicidio, un bombardamento, una spietata caccia all'uomo. Appena ricominciamo a camminare, a risalire nei sondaggi, ecco lo scandaletto. Mi vogliono politicamente morto. Così di buon mattino, quando i collaboratori gli segnalano le pagine del Fatto Quotidiano, Matteo Renzi, che reagisce con una furia. Certo, dall'intercettazione il segretario del PD ne esce bene. Pubblicandola ribadiscono la mia serietà, mi fanno un regalo, visto che chiedo al babbo di dir la verità, solo la verità ai magistrati. Ma come dice il capo della comunicazione Michele Ansaldi, la percezione nell'opinione pubblica rischia di essere negativa. I meno informati diranno: ecco il leader del PD, dopo il caso Boschi, di nuovo invischiato in uno scandalo. Questo secondo il Messaggero. Vera, falsa, presunta, non lo so. Sapete che l'Italia è un po' così, dei complotti, dei retroscena, del pensare se una cosa è fatta così per qualche altro retromotivo. Il Fatto Quotidiano, che oggi torna sulla vicenda, fa tre domande a Renzi. Perché, apostrofando il padre, dice: in passato la verità non l'hai detta a Luca? Cioè, chi è Luca? Forse Luca Lotti? E che verità non gli ha detto Babbo Tiziano? 2. Renzi invita il padre a non citare la madre Laura con i PM di Roma. Teme forse che, se interrogata la madre, possa rivelare particolari pericolosi? 3. Renzi chiede al padre: ha incontrato Romeo uno o più volte? Forse Matteo sa già di un primo incontro? È questo il non detto a Luca? Queste sono le tre domande che rievocano un po', ricordate, sulla falsa riga delle famose 10 domande di Repubblica a Berlusconi dopo le intercettazioni sulle oggettine. Effettivamente la sensazione, io ieri l'ho avuta, è stata questa: ho letto la prima pagina del Fatto Quotidiano, ho detto: mamma mia, se torna al potere Renzi ci aspettano altri anni di berlusconismo, nel senso di trattamento di questo tipo. Leggeremo paginate di intercettazioni sui giornali, staremo a vedere. Sta di fatto che c'è anche la tensione tra le procure. Questa raccontata da tutti i giornali, Fulvio Bufi e Fiorenza Sarzanini raccontano, per esempio, sul Corriere che questa intercettazione è uscita da Napoli. Per i PM della capitale, invece, di Roma, Paolo Ielo, il colloquio era irrilevante. Allora, irrilevante o importante? Da dare a un giornalista o da non dare a un giornalista? C'è anche questa questione. Il Corriere della Sera, poi, vabbè, qui siamo veramente allo spettacolo puro. C'è l'intervista di Virginia Piccolillo a nonna Renzi. Sì, sì, nonna Renzi, mamma di Tiziano, nonna di Matteo. Parla, intervistata, tre quarti di pagina, e che dice una nonna di nipote e figlio? Cosa può dire una mamma del proprio bambino Tiziano Renzi? Dice: mio figliolo non ha mai detto le bugie, neanche da bambino. Questo è il sunto dell'intervista. Anna Maria, il figlio e il nipote. Matteo non è mai accomodante, ma loro non hanno mai litigato, hanno solo questi due caratteri toscanacci così. E anche Matteo ne ha fatte di tutte: lo scout, il calcio, voleva far l'arbitro, e poi il sindaco, e poi il governo. Ma da piccolo, com'era Matteo? Più accomodante? No, l'era come ora, uguale, no, accomodante. Tutta così. L'intervista a nonna Renzi, nuovo personaggio che appare nella saga di questa letteratura, di questo fotoromanzo all'italiana. In tutto questo racconta anche Federico Geremicca un particolare di quando le due litigano. Beh, sono due toscani, padre e figlio, insomma, litigano. Federico Geremicca fa una lunga ricostruzione delle drammatiche giornate, così definite, di inizio marzo, le liti in famiglia. Renzi che confidava a un amico: mio padre è un pasticcione, bisogna che io ci vada coi piedi di piombo. Credo che in questa faccenda Romeo, la Consip e il resto finirà come Tempa Rossa. Allora, anche allora una consultazione, all'epoca il referendum sulle trivelle, anche allora un'inchiesta piena di fughe di notizie, poi tutto archiviato, ma con un ministro massacrato e costretto alle dimissioni. E racconta Federico Geremicca di queste liti, padre e figlio, con la madre che interviene: Matteo, smettila, basta urlare che tuo padre soffre di cuore, così lo fai morire. Ecco, la politica oggi dibatte tutto della saga della famiglia Renzi, compresa la nonna che dice: il mio figliuolo, cioè Tiziano, non l'ha mai detto le bugie, manco da piccolo. Caro Mauro Meazza, invece, il Pinocchietto dell'informazione, non lo so. No. Caro Alessandro Milan, intanto ho capito che lavoro voglio fare da grande, voglio fare l'ultra capiente. Ah, l'ultra? Bella, voglio fare l'ultra capiente, sì, mi sembra un bellissimo lavoro. Hai già dato notizia, hai già dato, fatto riferimento alla notizia appunto dell'assegno di separazione degli ex coniugi Berlusconi, con tutti anche gli approfondimenti per capire come collegare all'altra sentenza di Cassazione. Però io ho deciso che da grande voglio fare l'ultra capiente. Tu cosa vuoi fare da grande? L'ultra capiente anche tu vuoi fare la nonna del premier, non so, la premier... La nonna del premier, no. La premier grandma. Va bene, senti, basta celiare, perché oggi con il Sole 24 Ore ti diamo anche il focus dedicato al modello redditi persone fisiche. Tu dirai, che cos'è? Mm. È quello che fino all'anno scorso chiamavi modello unico. Serve per pagare le tasse, caro Alessandro, non so se sei sintonizzato su questo aspetto, ecco. 16 pagine per spiegarti cosa c'è di nuovo e come compilare correttamente il modello redditi, che prima si chiamava modello mi hai preso, sei distratto, sì. Unico, si chiamava l'unico, modello certo. Unico, adesso si chiama modello redditi. Mi hai colto, prof. Ti reminanza, anche perché ti devo segnalare che continua sul Sole 24 Ore la guida al Jobs Act, o statuto del lavoro autonomo. Uh-huh. Oggi in particolare tutte le novità previste per le professioni con questa delega al governo, che potrebbe ampliare anche le attività attualmente dedicate appunto agli iscritti negli albi. E poi una paginuccia da meditazione, dove il vezzeggiativo è veramente di affetto, sì, su laureati e lavoro. Ma quali lauree danno più lavoro? E tutti i dati oggi sul Sole 24 Ore, anche con una serie di considerazioni per capire i numeri, perché non basta poi fornirli, bisogna anche interpretarli. Ed è quello che trovi oggi nelle primissime pagine del Sole 24 Ore. Ti dico in ultimo, anche se avrei molte altre cose da dirti, ma devo andare a diventare ultracapiente, sì, quindi non ho tanto tempo, che nella discussione della manovrina, e qui il vezzeggiativo non è tanto affettuoso, nella discussione della manovrina si parla anche di una proroga della rottamazione, sarebbe più corretto dire una riapertura dei termini, per la rottamazione delle liti. Vedremo. Intanto ti ho girato un video, vai su WhatsApp, vai a vedere, interessante. Non puoi mandarlo adesso in onda, no, bene. No, è un video, però purtroppo non c'è l'audio. Ma alla svelta che devo diventare ultracapiente. Vai. Traffico! Alessandro Milan, il Google dell'informazione. Perché il Google? Va bene, dai. Allora, ci siamo, cari ascoltatori, dobbiamo parlare un attimo di... notizie dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti. Beh, io ho ironizzato alle 6.30 dicendo che il lavoro più usurante del mondo in questo momento dovrebbe essere considerato il portavoce della Casa Bianca, cioè il portavoce del presidente americano Donald Trump, peraltro portavoce che ormai sulla graticola potrebbe essere licenziato a breve. Dopo la vicenda, ieri parlavamo del... sembrava un clamoroso scoop del Washington Post, cioè lo è stato del Washington Post, e cioè Donald Trump ha parlato coi russi svelando loro delle notizie segrete, dei dati top secret che venivano da Israele e che peraltro potremmo sintetizzare così. Secondo Israele ci sono fonti certe, ovviamente di intelligence, che raccontano che i membri dell'ISIS starebbero... per approntare degli attentati, o vorrebbero approntare degli attentati con bombe sugli aerei. Una notizia non di poco conto. Che t'ha fatto Trump? Sì, l'ha spifferato ai russi, cioè l'ha detto ai russi, dicendo ma non erano informazioni top secret. Israele non è molto contenta. No, erano informazioni note, quindi sì, l'ho detto. E perché mi concentro sul portavoce di Trump? Perché il portavoce di Trump poco prima l'aveva smentito dicendo no, non ha dato niente ai russi. E poi Trump invece mezz'ora dopo ha twittato. Sì, è vero, l'ho dato ai russi, I am the boss, no? Che problema c'è? Ecco, capite, l'inferno del portavoce di Donald, così titola Il Giorno, pagina 11, dico una cosa e lui ne twitta un'altra. Cesare De Carlo racconta questa tragedia, non si riferiva a Trump, ma si riferiva a un'altra carica, la più ingrata, quella di portavoce. Definizione riduttiva quella di tragedia. Il portavoce del presidente non è un semplice referente, è l'interprete dei messaggi, non è un funzionario, è membro del governo, è press secretary, cioè ministro. La sua responsabilità è grande e se l'immagine del presidente ne soffre, la colpa è sua, perché vuol dire che non l'ha saputa vendere bene. Questo spiega la tragedia di Sean Spicer, attuale infelice portavoce, scrive Cesare De Carlo. D'altra parte è uno con i giorni contati, secondo il Washington Post. La candidata a sostituirlo sarebbe già stata individuata dalla giornalista Kimberly Guilfoyle, giornalista di Fox News. E racconta Cesare De Carlo in questo bel pezzo sul Giorno, in cui racconta anche i suoi rapporti con ex portavoce. Vidi per esempio l'ex portavoce di Bill Clinton, Mike McCarthy, all'epoca dello scandalo Lewinsky. Lo vidi quando lasciò la Casa Bianca, era rinato. Prima dormiva 3 ore, alle 6 la rassegna stampa, alle 7 la riunione dello staff, alle 8 quella col presidente, poi le visite di Stato, gli incontri con i leader del congresso, le interviste fino a mezzanotte. Abbandonata la Casa Bianca, mi ha detto, nostalgie nessuna. Ha ritrovato la famiglia, guadagnava molto di più dal punto di vista del privato e poi soprattutto, insomma, uno stress in meno notevole. Comunque Donald Trump dice, sono il boss, rivelo segreti. Che problema c'è? I dati top secret venivano da Israele e Paolo Mastrolilli oggi racconta, pagina 3 della stampa, questo cortocircuito degli 007 per cui Donald Trump ha svelato tutto e l'informazione raccolta in una città della Siria era la notizia secondo cui appunto l'ISIS sarebbe pronta a colpire con bombe sugli aerei, che t'ha fatto Donald, il nostro caro Donald, l'ha veicolata appunto al ministro degli esteri russo Lavrov. In tutto questo, se vogliamo tornare in Italia, vi segnalo delle ONG assolte. Questo è il titolo che troverete più diffuso, è anche l'apertura di Avvenire, sapete tutta la polemica. È stata conclusa l'indagine parlamentare sul ruolo delle ONG e i migranti, in virtù di nessuna prova, nessun rapporto con i trafficanti. Questa è la relazione della Commissione Difesa, si può riassumere così: le ONG assolte, ma stop al caos in mare. Questo è il titolo che trovate in prima pagina di Avvenire, in prima pagina di Repubblica, eccetera. Poi vabbè, se volete un po' di cronaca spiccia qua e là, c'è spazio solo per dire che l'ultima frontiera dell'intelligenza artificiale, l'ho letta sul Giorno una pagina, arriverebbe dal robot del sesso. Il robot del sesso, cioè delle donne robot, poi faranno anche gli uomini robot al costo di 10.000 euro che ovviamente soddisfano tutti i vostri desideri. Dalla bambola gonfiabile al robot del sesso, è la nuova intelligenza artificiale. Va bene, il Corriere della Sera con Michele Farina si chiede in un'intera pagina, pagina 11. E siamo alla carta costa. Il potere dei senza figli. Perché il primo ministro del Lussemburgo non ha figli al potere? Theresa May non ha figli ed è al potere? Nicola Sturgeon in Scozia non ha figli ed è al potere? Angela Merkel non ha figli ed è al potere? Il premier olandese Mark Rutte non ha figli ed è al potere? Emmanuel Macron non ha figli ed è al potere? Ma chi se ne frega!